Siamo in collegamento con Walter Vitale, ovvero il frontman di questa band. Ciao Walter! Ciao, ciao, come va? Tutto bene? Tu? Bene, bene. Allora, partiamo subito dalla prima domanda. Volevamo sapere un po' come si è formata la vostra formazione e come mai questo nome che tanto ci ha dato da penare oggi. Esatto, c'è una specie di supercazzola incorporata nel nome, voluta, fortemente voluta. Innanzitutto una precisazione, essere frontman della batteria è difficile, quindi in realtà questo ruolo è un po' dato al mio caro fratello amico Mike Lovito, trombettista della band, mio compagno di mille avventure, che saluto, come saluto il nostro chitarrista Vincenzo Caffeina Tancredi e il nostro nuovo bassista Antonio Raimondo. Quindi, come è nata la band? La band è nata proprio in un certo senso da Bologna, perché io ho vissuto lì fino a 5 anni fa, infatti sono già stato nei vostri studi con altre formazioni. Grande! Sì, è già capitato. Ho vissuto lì per 5 anni, sono stato molto attivo in programmazioni di jazz o comunque di musica moderna in senso ampio, anche produzioni pop, altre cose. E ho suonato con il Parto delle Nuvole Pesanti e altri gruppi, e quando sono sceso, tipo Eusebio Martinelli, lo conoscete, l'altro caro amico Gypsy Abarth Orchestra, sì. Orchestra. Ok, che saluto anche tutti i ragazzi della Gypsy Abarth, io ho militato per un paio d'anni con loro, e avendo già avuto altre esperienze tipo con la NEMA Problema Orchestra e altre ancora, Orchestra di Via Padova, avevo deciso di tornarmene giù a casa mia, portando un po' un bagaglio di quello che avevo avuto la fortuna di incontrare. E così ho fatto, quindi ho messo assieme un po' tutte le varie esperienze, ho chiamato i miei amici, alcuni di infanzia, alcuni di adolescenza, e insomma gli ho chiesto di iniziare con me questo viaggio. E adesso da 5 anni siamo attivi con dei piccoli cambi di line up che sul bassista insomma ci hanno fatto un po' penare, perché da qui viene perché si chiama Valka Vandanica. Inizialmente noi ci chiamavamo Erdei Monochiralifi, che è un, forse è più complicato, termine, un impronunciabile, esatto. Ungherese. Io ho un figlio in Ungheria che vorrei tanto in Italia, ma ahimè vive lì per volere della mamma, parentesi. L'ho conosciuta a Bologna e praticamente lei suonava con noi. Questa parola significa piccolo folletto principe del bosco, visto che lui vive in un bosco. E poi tutti dicevano: ragazzi, facciamo così, che vi chiamiamo la banda balcanica, perché secondo loro facevamo musica balcanica, anche se non era esattamente così. Quindi praticamente da banda balcanica, che è successo? Che io, che sono batterista lì, suonavo il violoncello come bassista, perché è un mio grande amore il violoncello. Io a 30 anni un giorno mi sono svegliato dopo aver fatto un sogno ed ero violoncellista. Per gioco ho iniziato a studiarlo e in quella formazione iniziai a testare il lavoro da bassista su un violoncello acustico. Chiamammo il batterista dei Folk a Bestia, c'era la madre di mio figlio al violino, Mike alla tromba, e quello che fu il bassista successivo a me era la chitarra. Poi dopo un po' di cose che sono successe io ho detto: vabbè, sai che c'è ragazzi, mi metto io la batteria, facciamo un po' sul serio adesso, tu vai al basso. C'è stata questa inversione e ci chiamiamo Valka Vandanica invece di banda balcanica, ecco. Che è semplicissimo, ma è sì, ma insomma, è abbastanza semplice questo. Confondersi, ecco. Sì, diciamo che è un gioco di parole infatti. Anche sì, quindi mi sono spiegato. È sì. Stato lungo. No, perfetto. Sì, perfetto. Senti, invece io volevo chiederti, quindi con la Balka... Mi sento poco, sai? Mi senti poco? Ora mi senti meglio? Ora meglio, sì. Ok, allora, volevo chiederti, con la Balka Vandanica, quindi la band della quale fai parte adesso, che sonorità avete? Qual è il vostro genere, il vostro stile? Il nostro stile è ovviamente lo stile bandanico. Che domande. Bene, illustracelo. No, nel senso che noi abbiamo questa sorta di simmetria. Allora, voi state chiamando in questo preciso istante un telefono di Policoro, cioè io sono a Policoro, in provincia di Matera, città della cultura 2019, capitale, che tenta di evolversi, no? E io tornando, insomma, ho abbracciato la causa. E, aspetta, perché ti sto dicendo questa cosa di Policoro adesso? Non lo sappiamo, però sicuramente dai, un nesso c'è, non lo so, svelacelo. Dai, ricapitoliamo la domanda. Volevamo sapere fondamentalmente quali generi, diciamo, affrontate quando salite, ecco, sul la simmetria, palco. Sì, scusate, la simmetria. Sono appena uscito da una riunione un po' dura, quindi sono un po'... Allora, praticamente che cosa succede? Che noi abbiamo preso tutte le esperienze di tutti e grazie a questa simmetria che abbiamo con i Balcani, su questa linea che vi ho detto, Policoro-Matera, che è un posto dove... non c'è tanta evoluzione dal punto di vista socioculturale, dal mio punto di vista, per quello che ho potuto vedere in questi 5 anni. Ci siamo? Ok. Allora, che cosa succede? Che lì, anche per via della guerra o di altro, io ci sono stato diverse volte in diversi posti, ho visto che ci sono alcune realtà che sono un po' ghettizzate a livello socioculturale e io anche qui ho ritrovato questa cosa. Però grazie al fatto che uno come me, dopo aver studiato e fatto tante esperienze anche all'estero, decida di tornare, di creare un'associazione culturale, una band, un centro delle arti, allora può essere che anche in un posto così si sviluppino dei linguaggi comunque originali. Noi abbiamo cercato, cioè veramente per gioco, perché questa cosa della Balca Bandanica è nata un po' per gioco, però alla fine ci siamo resi conto che grazie al fatto di contemplare tutto all'interno di un unico genere, avendo una venatura costante legata al folk, che comunque ha all'interno una venatura legata al Balkan in particolare, perché noi che cosa facciamo? Prendiamo dei ritmi, delle armonie, delle melodie legate a quel tipo di linguaggio e le rimescoliamo attraverso delle lenti, diciamo così, che sono più jazzistiche piuttosto che sono più funk, più metal, più rock. Non so, in base alle emozioni che vogliamo rappresentare, diciamo, utilizziamo degli ingredienti, cercando di non discostarci poi troppo o del tutto da comunque un linguaggio che ci ha portato fortuna, che è appunto quello balcanico, che per noi è sinonimo di... è quella componente folk un po' allegra, capito? Che comunque all'interno di un concerto che può essere impegnativo, comunque ti fa ballare, no? Certo. Ecco, è proprio lì che volevamo andare a colpire e... a modo nostro l'abbiamo fatto, insomma, certo. Poi non so se è apprezzato o no, però noi volevamo andare in quella direzione e adesso si sta iniziando a cristallizzare ulteriormente proprio questa scelta, perché poi con l'esperienza, dopo aver fatto un primo disco che ormai, anzi dopo pochissimo già non ci rappresentava più, e dopo aver fatto uscire comunque un live fatto al Pollino Music Festival nel 2015, adesso siamo pronti per entrare in studio dopo aver cambiato bassista e praticamente verranno fuori tutti i brani, che anche quelli che avete sentito, che al momento non sono ancora stati inseriti in nessun disco, si possono trovare su SoundCloud, quei due sono avete fatto sentire Bandanico, sì. E quindi noi nel frattempo abbiamo composto tanti brani, inizialmente suonavamo più robe tradizionali o comunque con un linguaggio un po' più, diciamo, no, tradizionale. Poi piano piano abbiamo iniziato a aggiungere degli elementi, degli ingredienti che andavano a discostarsi un po' dalla linea centrale. E proprio su Bandanico c'è una prima... forma definita di questo mix, di questo essere miscellani. Chiaro. Quindi così. Adesso però invece non è solo quello la Balca. Ok. Adesso invece ricordiamo il posto e il giorno in cui ci sarà il prossimo concerto. Ah, ecco, sì. Noi saremo lì sabato il 20 ottobre al Binario 69. Okay. Che è un fantastico locale molto attivo. Sì, lo conosciamo molto bene. Ah, sì. Lo frequentiamo spesso. Sì, di un mio caro amico che già ci ha fatti collaborare in un altro locale, non so se qualcuno degli ascoltatori se lo ricorda, il Baracca, sì, dove io per 2 anni ho organizzato circa 100 concerti. Wow. La nostra programmazione, spero si possa dire, era più interessante di quella di tanti posti che fanno tanto i fighi lì a Bologna. e poi sono tutte chiacchiere distintivo. Invece noi facevamo seriamente musica, c'era un bellissimo clima e mi hanno detto che un po' ma anche in generale a Bologna, ma in tutta Italia, anche io me ne sono accorto un po' questa, di questa cosa. Spero che torni, e proprio grazie ai ragazzi del Binario 69 c'è un forte incentivo affinché si possa respirare in una città fantastica come Bologna, perché mi ha dato tante gioie e tante soddisfazioni. Però ahimè, bisogna tenerla, la fiamma bisogna tenerla alta, se non ci sta nessuno al fuoco si spegne, ecco. Certo. Quindi allora, venite esatto. Sulle fiamme alte il 20 ottobre, che ci pensiamo noi a tenere la fiamma alta, va esatto. Bene? Noi ti ringraziamo per questa intervista e per averci spiegato un po' chi siete, e invitiamo quindi tutti a venire sabato al Binario per ascoltare questa band dalle sonorità miste, ecco. Noi ci ascoltiamo un altro brano della Balca Bandanica e ci risentiamo fra pochissimo. Ciao Walter, grazie. Okay. Ciao, grazie a voi.